perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Non so cosa devo fare, devo suonare le campane che finalmente ti sei degnato di tornare al lavoro. Fammi un po' sentire la voce com'è. Guarda, la voce, cara Deborah, buongiorno agli ascoltatori. La voce è nettamente migliorata. Bene, anche perché ti sei scaldato le corde vocali ieri sera. Questo non posso negarlo, sì, sai che ho una seconda vita, quella di cantante intrattenitore. E quindi ieri sera abbiamo doverosamente celebrato l'apertura della mostra Wondi sono io qui, in viaggio con Wondi, proprio al Sole 24 ore. Quindi Chapter 11 hanno cantato a squarciagola ieri sera, per cui ti sei ripreso pienamente, noi siamo ben contenti. Allora, per quello che riguarda gli argomenti che abbiamo scelto per questo tuo rientro, intanto abbiamo la meteo borsa, lunedì diamo un'occhiata a quelli che potranno essere i temi della settimana finanziaria e poi un grande focus su un grande tema che oggi viene analizzato dal Sole 24 ore, Mauro. Sì, i debiti delle famiglie. Perché? Perché sul Sole 24 ore oggi presentiamo appunto la situazione debitoria. Non tanto quella degli stati, sappiamo che il debito italiano è abbastanza elevato, diciamo così, siamo penultimi, sopra di noi solo la Grecia, però c'è anche da considerare quanto le famiglie sono indebitate. C'è stata la settimana del risparmio, io vi ho seguito da casa religiosamente, come sempre bisogna fare con due di denari, e adesso parliamo invece insieme a una gradita ospite che è la collega Chiara Bussi. Buongiorno Chiara. Esatto. Parleremo oggi appunto del debito delle famiglie. Anche le famiglie hanno i loro NPL, i loro crediti deteriorati. E infatti, allora, quando poi si trovano in queste condizioni di difficoltà devono magari avvalersi di qualche consulente esperto per ricomporre la situazione finanziaria, quindi anche di questo aspetto parleremo. Per cui direi che possiamo anche invitare i nostri amici a chiamarci, se sono interessati all'argomento, all'800 24 0024. Raccontateci proprio per che cosa vi siete indebitati, per quali beni o progetti della vostra famiglia, la casa, l'auto, gli studi di un figlio o ancora per che cosa. Diteci voi, diteci anche qual è quel debito che avete fatto o state facendo fatica a sostenere e perché, come state gestendo questa difficoltà. Tornando indietro, fareste le stesse scelte? Ci possono anche scrivere. Certo, ci possono scrivere SMS o anche con WhatsApp 349 238 6666, e naturalmente volendo c'è anche un'email, perché no, due di denari, attenzione, così a lettere come ve lo dico, due di denari @radio24.it. Bene, partiamo allora con il primo appuntamento della settimana. Meteo Borsa. Allora, dal punto di vista meteorologico direi che non ci possiamo lamentare in questi giorni. Milano è magnifica, ci sono le famose ottobrate di Milano, solitamente sono quelle non romane. Non sapevo che fossero anche a Milano, però effettivamente sono piacevoli. Le ho coniate io, le ho così battezzate io. Allora, non abbiamo ricordato anche Facebook. Hai ragione. Sai che ci seguono con tanto affetto i nostri... E allora salutiamo chi ci segue su Facebook, la nostra pagina. Social ascoltatori. Radio 24, due di denari. Buongiorno, eccoci qua. La borsa, allora, per quello che riguarda il mercato finanziario, mattina la partenza è discreta, diciamo un tenore leggermente positivo per i listini continentali. Abbiamo Parigi in rialzo dello 0,02%, Francoforte più 0,08%, leggermente negativa Londra, abbiamo Madrid in rialzo di oltre mezzo punto percentuale e Milano più 0,08%. Tu la settimana scorsa non ci sei stato, ma Wall Street ha corso come una forsennata, cioè un record dietro l'altro. Io vi seguivo e ti seguivo dare anche gli aggiornamenti borsistici, ma con un po', devo dire, di apprensione. Posso dire la parola apprensione? Sai che è la stessa sensazione, lo stesso sentimento che pervade l'animo di Alessandro Aldrovandi, nostro analista finanziario di strategiedetrading.it. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Perché lui stamattina, ragionando insieme a me prima della trasmissione sui temi che avremmo potuto affrontare quest'oggi alla Meteo Borsa, mi diceva: secondo me questo mercato ha un po' di fiato corto. Quindi vediamo un po', lo facciamo indossare il turbante. Aldrovandi, come mai ha questa sensazione? Beh, ho notato che la settimana scorsa, nonostante non solo le borse estere internazionali, anche quella tedesca e anche quella americana, continuassero a battere i propri massimi, i massimi storici, anche noi siamo andati molto in alto, il nostro indice ha quasi sfiorato la famosa soglia psicologica dei 23.000, e in realtà tutto questo è avvenuto giorno dopo giorno, salendo un pochettino, con 5-6 sedute, sempre a rialzo ma con volumi sempre più bassi, volumi molto bassi, molto inferiori alla media. I volumi sono proprio l'evidenza più concreta di ciò che avviene in borsa, perché lì si contano, ci contiamo noi operatori economici, e quindi certamente se la borsa sale questi volumi sono generati dai compratori, ma quando i volumi sono bassi vuol dire che i compratori sono sempre meno compratori, arriveremo a un punto in cui i compratori quasi non ci sono più. Ecco, ce lo faccio sapere con un po' di anticipo, così almeno scappiamo via da questo mercato, non che noi siamo investiti perché non possiamo, naturalmente, come giornalisti nel settore. Sì, poi devo dire anche la nostra capacità forse di investimento è azzerata, non è così imponente, però esatto. È bene saperlo, perché anche ad averne pochi, anzi diventa ancora più importante dove si mettono. Esattamente. No, ma non volevo essere allarmista, per carità, c'è da stare attenti, nel senso che quando si arriva a un certo punto, per carità, la borsa si ferma, ma le quotazioni rimangono più o meno su quel livello e i volumi sono molto scarsi. Di solito succedono due cose, e qui è un po' come lanciare la monetina: o ricominciano gli acquisti e il trend continua, oppure chi comincia ad avere paura o ha già delle plusvalenze potenziali dice ma quasi quasi incasso qualcosa, e allora comincia a vendere. Il primo comincia, il secondo comincia, il terzo pure, e poi si innesca una spirale purtroppo negativa, che infatti può essere più o meno lunga. Esatto, detto questo, dati i livelli attuali, insomma, se ci dovesse essere la correzione non ci dobbiamo sorprendere né pensare male e dire non ce l'avevano detto, nessuno l'aveva previsto, mi sembra che sia ampiamente nei numeri una correzione possibile. Allora, poi non è detto che si verifichi, però. Con una metafora meteorologica mi sembra di capire, dottor Aldrovandi, che qui siamo al, come dire, nuvoloso, tempo nuvoloso. Sulle borse? Ma non ancora. Ah, si sta rannuvolando. Sì, esatto. Esatto. Senta, allora parlavamo di Wall Street che è sui massimi, però anche la borsa tedesca è a livelli record, giusto? Sì, si sta sfiorando anche qui una soglia psicologica importante dei 13.000, non ci siamo ancora arrivati, ma quasi, e comunque siamo sui massimi storici. La Catalogna non ci dà più fastidio? Direi di no, anzi paradossalmente in queste ultime giornate ha fatto bene, perché la borsa spagnola, l'indice IBEX, sono 6 mesi che scende inesorabilmente, lentamente, ma con un trend costante. In realtà queste vicende di queste ultime settimane, di questa ultima settimana in particolare, ha dato maggiore volatilità, con qualche giornata molto ribasso, ma qualcuna come venerdì e come oggi anche fortemente a rialzo. Quindi forse si è fermato il ribasso e qualcosa c'era. Di sicuro è aumentata la volatilità. Dottor Aldrovandi, io essendo a casa nei giorni scorsi, bloccato come dire da un malanno di stagione, vedevo questa vicenda della BCE che ha deciso un'ulteriore stretta sulle banche. Lì dobbiamo aspettarci, perché il settore già è delicato, è cagionevole di salute anche lui in qualche modo. Ma io so, e qui bisogna esprimere delle opinioni personali, perché non esiste una verità assoluta. Secondo me Draghi sta facendo molto bene ed era ora. I crediti deteriorati, NPL, come giustamente avete detto, di cui parlerete dopo, ancora non si sa bene quale sia l'ammontare complessivo bancario. C'è chi parla di 150 miliardi, chi 200 miliardi, sono cifre enormi e comunque il numero esatto non si sa. E quindi secondo me più si fa chiarezza e più purtroppo si è rigidi, come tagliare le perdite, un po' come nelle attività in borsa, no? C'è il famoso stop loss, quando le cose non vanno bene meglio fare chiarezza, fare pulizia di tutto, guardarci negli occhi e da lì poi ripartire. Certo. Ecco, quindi questa è la mia personalissima opinione, quindi credo che farà un po' male all'inizio, ma è un bene per il futuro. Però sembra che faccia male soprattutto all'Italia questo a procedere della BCE, no? Dato canto non abbiamo fatto pulizia prima, siamo rimasti in questo numero, ce lo diciamo, è questo, pian piano faremo delle cose, proviamo con dei fondi, recuperiamo delle banche, ma siamo sempre stati piuttosto nel vago. Quindi non dobbiamo essere convinti di una persecuzione in qualche modo, di un sospetto particolare nei nostri confronti da parte della Banca Centrale Europea? No, a mio parere no, ci siamo noi che ci siamo sempre detti e abbiamo le banche più solide d'Europa, non è così vero. Senta, allora, a proposito di Italia e situazione bancaria ancora ritenuta un po' precaria, anche di questo ha parlato Moody's, ribadendo il suo giudizio sull'Italia venerdì scorso. È stato confermato il rating Baa2, è stato ribadito l'outlook negativo. L'Italia, dice l'agenzia di rating, è riuscita ad evitare una crisi più profonda del sistema bancario e sta vivendo un momento di crescita più forte, nonostante questo questo restano dei rischi legati alla considerevole incertezza, che mi sembra la nostra autorevole leggerezza, Mauro, sulle priorità del prossimo governo e sul proseguimento nei prossimi anni del risanamento dei conti e delle riforme strutturali. Questo così volevo ricordarlo ai nostri ascoltatori. Tornando invece a Piazza Affari, ai temi della mattinata, c'è Mediaset che vola, più 7% per il Biscione Aldrovandi. Allora, arriva questo maxi risarcimento da Vivendi per non aver comprato Mediaset Premium? Se maxi non lo so, sicuramente qualcosa arriverà e la borsa lo sta già anticipando. Sicuramente è vero, in questo momento Vivendi è in una posizione di debolezza, per cui, e mi sembra che le trattative ad altissimi livelli siano già iniziate dopo anche le perquisizioni effettuate venerdì scorso dalla Guardia di Finanza negli uffici di Vivendi, e quindi credo che si arriverà presto ad una soluzione, anche non ad uno scontro frontale, ecco, perché Vivendi è effettivamente in una posizione di debolezza, perché anche non sono due società o due famiglie o due gruppi diciamo ostili, anzi hanno sempre spesso collaborato nelle aree in cui non erano in concorrenza, per cui anche la famosa scalata fatta in dicembre scorso da parte di Bolloré nei confronti di Mediaset non è stata poi così ostile. Bolloré ha messo 5 miliardi di euro e in questo momento si trova con una perdita potenziale di 5 miliardi e mezzo, quindi è veramente debole. Sicuramente Mediaset incasserà un risarcimento, non certamente quei 3 miliardi che ha formalmente richiesto in tribunale, ovviamente, però insomma sono soldi che entrano e quindi non può che far bene al titolo. Partirà una trattativa sulla cifra. Grazie ad Alessandro Aldrovandi per essere stato con noi e buona borsa per tutta la settimana anche a lei. A presto. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Dues, caro Mauro, allora. Ma è migliorata la scelta musicale, devo dire, la mia lontananza. Abbiamo studiato tutta la settimana per farci trovare pronti. Ah, infatti... volevate fare buona figura. Esatto. Bene, bene, bravo Marco Lombardo, brava Giulia Lauricella, avete scelto bene. Per questo tema della giornata, siete indebitati, ditecelo, chiamateci 800240024 oppure scriveteci. Scriveteci le vostre SMS, i vostri WhatsApp, mi raccomando, 349-238-6666. Parliamo dei debiti delle famiglie italiane. I debiti delle famiglie. E allora, cara Deborah. Sì, allora, è uno dei pochi vanti della situazione economica italiana. Gli italiani fanno tanti sacrifici, continuano a risparmiare come pochi al mondo, e anche se hanno a volte necessità di indebitarsi sottoscrivendo mutui e prestiti, in realtà continuano ad essere tra i meno indebitati al mondo. E sicuramente in questo senso sono tra i migliori cittadini europei, come evidenzia Il Sole 24 Ore nella brillante inchiesta realizzata dalla nostra Chiara Bussi, che salutiamo. Chiara, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, è anche vero che abbiamo un lato però problematico della questione, vale a dire la condizione di chi tuttavia si indebita troppo e fa molta difficoltà ad uscire da questo tunnel, tanto che abbiamo questo enorme problema che si racchiude dietro a questa sigla NPL, Non Performing Loans, che le banche stanno smaltendo a fatica, come abbiamo ampiamente analizzato. A me piace prima. Molto anche l'addizione all'italiana, crediti deteriorati. Esatto. Anche dentro... inesigibili è difficile da pronunciare. Inesigibili già, esatto. Vabbè, deteriorato mi dà l'idea proprio della cosa che sta incagli, andando a male. Sofferenze, chiamiamole come vogliamo, sono tanti lati di questa medaglia che ha tante facce, per l'appunto. Allora, Chiara, quanto ammonta il debito delle famiglie italiane rispetto al PIL? Dacci questa cifra e questa fotografia. Il debito delle famiglie italiane rispetto al PIL vale circa al 42% contro il 53% di quello tedesco. Negli ultimi anni, negli anni della crisi, con la sola eccezione della Germania, in tutti i paesi è stato registrato un aumento dei debiti contratti, ma noi tra i principali europei, noi come Italia tra i principali europei, siamo all'ultimo posto. Diciamo che per una volta almeno facciamo meglio dei tedeschi, ma almeno in apparenza. Perché abbiamo in apparenza, Chiara? In apparenza perché abbiamo sì il livello più basso di indebitamento rispetto al PIL, ma poi per monitorare il fenomeno, per monitorare questa problematica, occorre considerare numerosi altri indicatori e successivamente vi spiegherò bene. Ma guarda, alzaci subito il velo su questi aspetti, che vogliamo già saperlo. Ecco, allora, per comprendere l'indebitamento, diciamo la vera portata dell'indebitamento, è scorretto corretto limitarci solo a un indicatore che è il livello di debito rispetto al PIL, perché questo indicatore raccolta solo una parte della storia, dato che l'indebitamento è una sorta di termometro che aiuta a capire lo stato di salute di un paese, si compone di diversi elementi, come avete già accennato voi, quindi qual è la quota di prestiti sul reddito, a quanto ammontano i mutui, l'andamento del credito al consumo. C'è anche un indicatore significativo che è la quota di reddito che serve per pagare i debiti, oppure qual è la nostra quota di arretrato sui pagamenti, eccetera. Diciamo, tutti questi indicatori sono vari tasselli di un puzzle più complesso che aiuta a capire la temperatura dell'economia e i rischi di stabilità finanziaria. Cioè bisogna guardare quindi non solo quanto siamo indebitati, ma anche per cosa siamo indebitati, certo, ad esempio. Certo. Quindi se sono debiti di lungo periodo, come possono essere quelli per acquistare una casa, se sono debiti perché abbiamo chiesto un prestito per il cosiddetto credito al consumo, quindi che so, l'acquisto di beni durevoli, un elettrodomestico, un'automobile, certo, o cose di questo genere, oppure se sono debiti di altra natura. E considerando tutto questo e la nostra disponibilità di reddito, vedere qual è il rapporto ottimale. Una volta, forse anni fa, magari dico una cosa un po' âgé, saranno contenti gli ascoltatori della mia età, si diceva mai più di un terzo di quello che guadagni dovrebbe essere la soglia ottimale. Diciamo che mediamente questa moda âgé è ancora di moda, se posso dire, perché la percentuale raccomandata da tutti i consulenti del settore rimane questa, insomma, certo. È bene non sorpassarla, insomma, non superarla. Certo. Ma Chiara, ad esempio, sul credito al consumo come siamo messi? Sul credito al consumo l'Italia è sotto la media dell'Eurozona. Allora, va detto che il credito al consumo pro capite è aumentato di ben il 33% in 16 anni, dal 2000 ad oggi. Noi siamo sotto la media, diciamo, oggi in Italia si spendono in media pro capite 1.800 euro all'anno. Basti pensare che in Irlanda se ne spendono 2.500, in Germania 2.300. Spendono in che senso? È l'ammontare delle rate che la, una famiglia paga per restituire. È l'ammontare delle rate prestito. Pro capite che si paga per i finanziamenti, quindi a rate di mutui, certo. Credito al consumo, quindi acquisti di beni con lo strumento del credito al consumo. Con il passare del tempo però l'Italia ha recuperato terreno, perché nel 2000 eravamo ottavi e adesso siamo quinti, quindi cioè diciamo che usiamo di più il credito al consumo, anche se per una serie di ragioni, non da ultime quelle culturali, noi abbiamo questa tendenza a non indebitarci molto, come detto, cerchiamo di più l'aiuto dei familiari con il cosiddetto welfare familiare, e questo ci ha consentito di avere anche negli anni della crisi una sorta di rete di sicurezza che ha compensato anche il calo del reddito. Diciamo che la pensione della nonna ancora fa da sponda, dice, non indifferente, esatto, fa sempre comodo per proteggere dalle crisi finanziarie e familiari. Allora, nel frattempo si è aggiunto anche il nostro secondo ospite, Mauro. Abbiamo fatto un po' di fatica a collegarlo telefonicamente, oggi la tecnologia da questo punto di vista, le telecomunicazioni non ci assistevano, per cui ringrazio e saluto per essere con noi Marcello Grimaldi, presidente del forum Unirec Consumatori, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. La grazie. Sentiamo bene. Buongiorno. Mi spiace per i problemi. No, non era colpa sua, guardi, la colpa era nostra, per cui ci mancherebbe altro, quindi ci scusiamo noi. Allora, domani c'è un importante convegno a Roma in cui si farà il punto della situazione proprio sull'indebitamento delle famiglie italiane, di tutti quegli strumenti che possono essere messi a loro disposizione nel caso in cui il debito sovrasti la condizione finanziaria della famiglia, circostanze che si possono verificare. Oggi ci sono tante modalità per ricomporre una crisi finanziaria da sovraindebitamento, però è bene fare anche un punto della situazione per quello che riguarda la vostra attività, Grimaldi. Intanto ci fa il biglietto da visita del forum Unirec Consumatori. Di che istituto stiamo parlando? Beh, il forum Unirec Consumatori senz'altro rappresenta un unicum nel panorama europeo, una sorta di tavolo di confronto, se vogliamo, tra associazione dei consumatori e società di recupero crediti, discutere un po' quelle che sono le problematiche, direi più che altro le buone prassi del settore della tutela del credito, per intenderci del settore del recupero crediti, cioè proprio le modalità con cui svolgere le attività di recupero crediti. Di fatto il forum è stato costituito da qualche anno, dal 2014, ed è riuscito a elaborare già una seconda edizione di un codice di condotta contenente proprio quelle che sono le regole del settore, ispirato a una cultura del recupero crediti etico, se vogliamo, regole precise, modalità operative che coniugano in maniera innovativa quello che è il diritto di credito con l'altrettanto legittima aspettativa da parte dei consumatori di vedere esercitata correttamente l'attività di recupero. Quindi un codice che senz'altro rappresenta anch'esso un unicum nel panorama europeo, perché non molti stati sono riusciti a elaborare un codice di questo tipo, e rappresenta forse uno standard proprio da emulare presso altri settori. Certo. In questo workshop di domani presenteremo il codice di condotta e, come diceva lei, un po' illustreremo quelli che sono gli strumenti messi a disposizione per gestire le crisi da sovraindebitamento. Innanzitutto mi consente di sottolineare che sicuramente le società di recupero credito in quest'ultimo periodo svolgono un'attività proprio consulenziale, direi, nei confronti dei consumatori, mettendoli davanti a quelle che sono le possibili soluzioni per definire la posizione debitoria, quindi senz'altro un ruolo nuovo e più evoluto delle società di recupero, che è accompagnato sicuramente all'adozione del codice di condotta. D'altro canto ci sono dei mezzi, degli strumenti che non sono granché conosciuti, da qui queste iniziative che abbiamo promosso sul territorio per appunto informare la cittadinanza tutta in ottica di educazione finanziaria, che esiste ad esempio una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si fermi lì, Grimaldi, perché lei mi è partito al razzo e non bruciamo tutti gli argomenti che potremo approfondire dopo. Sì. Esatto, perché naturalmente come uscire, abbiamo detto, ci indebitiamo meno, ci scrivono gli ascoltatori, un'ascoltatrice ci ha scritto un SMS dicendo: ma noi in realtà non usiamo di fatto i finanziamenti per credito al consumo, ci indebitiamo solo per la casa, che è il nostro unico debito di lungo termine. Però questo un po' nella media, se vogliamo, che ci raccontava prima Chiara, ma invece per chi è in difficoltà ci sono altri strumenti. Ma tutto questo ve lo racconteremo dopo avervi aggiornato sui mercati. Potete continuare comunque a scriverci, a telefonarci 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Noi torniamo subito, adesso Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Questa di chi è? Che non niente, non lo sa neanche lui. Le trova, ma non le sa. Marco Lombardo. Mi chiedo poi dove le trovi, Marco che Lombardo. Ne so, guarda, poi sta sempre lì seduto davanti a me, non lo vedo distratto nella ricerca su web di queste colonne sonore. Secondo me originali. Ha degli spacciatori anche lui. Guarda, di file musicali cosa introvabili. Che tra voi musicisti io non mi intrometto. Allora, ma dobbiamo parlare di questi debiti, sì. Perché volevo chiedere a Chiara, ma perché cosa cioè com'è il profilo del debitore, di colui che si trova in difficoltà? Tu lo racconti un po' sulle pagine oggi del Sole 24 Ore, c'è anche tutto uno sviluppo grafico molto interessante che per ovvi motivi non possiamo mostrare alla radio, però potete guarda, trovarlo. Intanto che voi parlate io provo a mostrarlo su Facebook. Sì, guarda, ecco, vedi che qua. Il social ci aiuta una volta non tanto. Non so cosa si potrà vedere, ma intanto eccola qua, la pagina c'è, esiste la e pagina io ve la esiste. Mostro. Se trovate la pagina in edicola o su computer, su tablet, come volete, lì c'è tutto uno sviluppo grafico. Ci sono grafico. Gli appassionati, degli indicatori. Infatti, proprio questi indicatori volevo chiedere a Chiara. Eccoci, diciamo che il profilo di chi si indebita varia da paese a paese e l'Italia si distingue dagli altri, perché da noi il peso del debito tende a concentrarsi sulle fasce più deboli e quindi più vulnerabili, con maggiore difficoltà a ripagare i debiti. Invece in Olanda e in Germania, diciamo, questo peso, questo fardello, che si può chiamare veramente così, è distribuito in modo più equo tra le varie fasce di reddito e quindi è più facile ripagarlo, ma lo si vede anche da altre statistiche che ho esaminato e sono quelle a cui accennavo prima. Sono ad esempio queste statistiche sui pagamenti in arretrato di utilities, mutui e affitti. Da noi il 10% delle famiglie si trova in questa situazione e in Germania e Olanda appena il 5% delle famiglie. Quindi in un modo o nell'altro in Germania e Olanda riescono poi con il loro reddito a ripagare i mutui, ma noi veramente facciamo più fatica. Quindi noi abbiamo più NPL in noi un certo abbiamo senso. Più NPL. Ci sono degli altri dati molto interessanti dell'autorità bancaria europea su, proprio sugli NPL delle famiglie. Si ragiona sempre sul stock totale di NPL, se ne è parlato molto anche la settimana scorsa, come avete ricordato. Noi abbiamo cercato questi, abbiamo la nostra curiosità era andare a trovare, ma a quanto ammontano gli NPL delle famiglie? E in effetti prima dell'Italia c'è solo l'Irlanda, in Irlanda sono il 13% e da noi, scusate, sono il 15% e da noi sono circa il 12%, pari a 60 miliardi secondo i dati dell'autorità bancaria europea. Dobbiamo questo dire... significa che... Che più di praticamente più di un italiano su 10 ha problemi a rientrare con i debiti che ha contratto. Certo, certo, proprio per le ragioni di cui abbiamo parlato prima. No, tra l'altro volevo focalizzare l'attenzione degli ascoltatori e di chi è interessato all'argomento, che quando noi parliamo di sovraindebitamento ci viene sempre in mente la situazione del mutuo che non riesci a ripagare nella rata o il prestito, ma in realtà parliamo molto anche di bollette, di utenze, quindi che appunto non si riescono a rispettare proprio per magari contingenti crisi economiche. Quindi anche in questo mondo che opera il recupero crediti, no, dottor Grimaldi? Quindi andare ad aiutare una famiglia a ricomporre la propria crisi finanziaria significa solamente non riorganizzare la sua condizione dal punto di vista del rapporto con la banca, ma anche nel rapporto con delle società, per esempio, di erogazione di gas e luce ed energia. Grimaldi? Quando si parla di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento si fa riferimento a una definizione complessiva, no, della situazione economica del consumatore. La legge fornisce anche una definizione specifica, situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte. Quindi è evidente che le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento tiene presente un po' tutte quelle che sono le possibili sfaccettature per vedere in qualche modo di riportare in ordine quella che è la situazione complessiva del consumatore debitore. In questo il ruolo delle società di recupero è rilevante nel momento in cui possono scattare appunto delle sinergie in un'ottica appunto di consulenza fatta al debitore, anche invitando in qualche modo ad avvicinarsi alle stesse procedure che sono messe a disposizione proprio per risolvere il problema del sovraindebitamento. Ecco, ma dottor Grimaldi, questi strumenti. Dottor Grimaldi, credo. Questi strumenti, appunto, se uno è troppo indebitato, magari si diventa troppo indebitato perché banalmente perde il lavoro e quindi il livello di indebitamento, ce l'ha scritto qualche ascoltatore, e diventa eccessivo. Prima non lo era, ma poi lo diventa. Quali sono questi strumenti, se possiamo evocarli rapidamente? Non potremo chiaramente spiegarli tutti, ma ci dica almeno un po' su cosa si può agire. Beh, allora, quando parliamo dell'approccio fatto dalle società di recupero, sicuramente le società di recupero hanno a disposizione, nell'ambito di quelle che sono le istruzioni fornite dai creditori, strumenti come piani di dilazione, piuttosto che, se possibile, se sussiste l'autorizzazione da parte del soggetto del creditore, anche la possibilità di stralciare, quindi quasi di fare uno sconto sulle posizioni dove ci sia una situazione di effettiva gravità. Poi attivare le procedure di tipo giudiziale, cioè queste procedure previste dalla legge 3 del 2012, è un'opzione che è in mano al consumatore. Allora, chiaramente, di fronte a questo tipo di procedura, la società di recupero ovviamente stoppa, ferma la propria attività e si va a elaborare un vero e proprio piano di ristrutturazione della situazione economica del debitore, purché ci siano determinati requisiti. Ma proprio per questo, con Federconsumatori ad hoc, stiamo organizzando questa giornata di domani per far conoscere un po' a tutti, insomma, questi questi strumenti che sono messi a disposizione soprattutto di coloro che si trovano in una situazione di che gli italiani non conoscono, proprio perché ovviamente, e li possiamo anche comprendere, qualche volta la condizione di sovraindebitamento è vissuta come un'onta insopportabile che ti rende veramente, ovviamente, la vita difficile, ma ti mette proprio nell'incapacità di andare a cercare quelle soluzioni che possono essere praticate per gestire questa condizione difficile. Le faccio sentire Grimaldi, lo faccio sentire anche a Chiara Bussi la domanda di Carla da Bologna, che voleva chiederci appunto un aiuto. Carla, benvenuta. Buongiorno. Ci dica. Allora, io volevo dire innanzitutto che le agenzie di recupero credito non aiutano proprio per nessun motivo chi è in una situazione debitoria un po' complicata a risolvere il problema, anzi lo complicano. Mi sta succedendo che io per diversi motivi sono un pochino indietro con i pagamenti e sono subissata dalle agenzie di recupero crediti. Ha fatto bene a dircelo, Carla, perché magari non tutte hanno sottoscritto questo protocollo deontologico che l'Unirec sponsorizza con tanto fervore, naturalmente, quindi è bene anche che il presidente di questo forum lo sappia, quindi poi magari, Carla, ci sentiamo e ci segnala le società. Prima cosa, quindi poi... In particolare mi ha minacciato di pignorarmi il conto corrente bancario se non pago. Io certo. Non penso che un'agenzia di recupero crediti possa arrivare a questo, però io sono ignorante, certo. Non lo so. Carla, sicuramente non deve arrivare alla minaccia, perché il codice etico di cui parlava prima Grimaldi impedisce proprio alle società di operare con queste modalità. Appunto. Grimaldi. Beh, assolutamente. Si tratta di impegni sottoscritti, impegni vincolanti per le società che vi aderiscono e sicuramente ci sono delle modalità che vanno dal numero di colloqui possibili nel corso di una settimana piuttosto che nel corso di una giornata, a precise regole su come presentarsi al debitore. I toni minacciosi, non c'è nemmeno a parlarne, sono fuori non sono ovviamente contemplati dal codice. Bisogna appunto, tra l'altro, indagare, capire volta per volta cosa succede nelle diverse fattispecie, certo, per vedere un po' cosa è successo. Grimaldi, insomma, ci dobbiamo fermare adesso perché abbiamo un altro impegno, ma ci torniamo su questi aspetti fra pochissimo. Mauro, certamente, hai qualcosa per me? Io avrei due cose per te, sì, però forse possiamo anche mandare prima... Ah no, hanno deciso dalla regia, che ringraziamo, che è il momento lirico solenne del lunedì. E allora vado alla lettura del sonetto. Ti prego. Al fin ritorno qui in via Monte Rosa, da dove la mia voce oggi vi giunge, con Debora Rosciani premurosa che i tuoi risparmi aiuta, e intanto punge l'INPS o la banca poco generosa, le borse più vicine oppur da lunge. E se svelato avremo qualche cosa, allora questa radio proprio funge. Io, che da ascoltator torno ascoltato, sentivo dire del bonus bebè, di conti rincarati con rammarico. Or giovi a voi, come fu a me appiedato, gustar la meteoborsa che oggi c'è, e se viaggiar dovete, eccovi il traffico! Due di denari. Allora, sei Cara rimasto Debora. Colpito dal caso della nostra ascoltatrice? Sono rimasto colpito perché volevo proseguire con il dottor Grimaldi questa ricerca di soluzioni alternative. Cioè, che possiamo fare? Allora, va bene, sul mutuo sappiamo che ci sono degli strumenti, uno può andare che so, in banca, però lui vedere di rinegoziare il mutuo, può anche eventualmente surrogare, come si dice. Ma invece per quanto riguarda proprio la complessiva situazione debitoria, che come abbiamo detto diventa improvvisamente, inaspettatamente insostenibile, lui diceva possiamo fare un'analisi con la società di recupero crediti, certo. E quindi poi definire che cosa? Fare più rate, questa mi sembra essere una delle, cioè diluire il debito nel tempo su un periodo più lungo, anche se questo mi immagino comporterà un aumento degli interessi da pagare. Però ci dica lei, dottor Grimaldi. Guardi, allora funziona esattamente così. Nel momento in cui ci viene conferito un incarico da una società mandante, da alcuni creditori, in ragione appunto dell'aging, quindi dell'anzianità del credito, ci viene data la possibilità di andare a discutere entro determinati limiti e nel perimetro, ecco, indicato dal soggetto creditore, la possibilità di accordare una dilazione versando un acconto, piuttosto che appunto il numero anche complessivo di rate massime che possono essere ovviamente previste in quello che è un nuovo piano, no? Un nuovo piano di pagamento, per semplificare un po' le cose. Sicuramente questo da un lato facilita, perché il nostro operatore, il nostro incaricato, di fatto parlando con il consumatore, andrà anche a verificare un po' quelle che sono le disponibilità, gli altri impegni assunti parallelamente, insomma, a quello che si sta trattando, e in quel contesto andrà ad accordare una dilazione con un tot di rate da pagare. Per questo parlavo di un'ottica consulenziale, perché di fatto si vede anche quando saranno le possibili entrate, quali sono gli altri obblighi collaterali da rispettare, qui si concorda, ma nei limiti appunto di quanto prestabilito dal creditore, come procedere nei pagamenti. E questa è una effettivamente una possibilità molto molto utilizzata, soprattutto con l'ambiente, insomma, di un periodo più difficile, ecco, fatto con la crisi. Spalmare tra virgolette il pagamento su un periodo di tempo più lungo sicuramente da un lato agevola a rendere più possibile, più sostenibile il pagamento. Breaking news. Il premio Nobel per l'economia 2017 è stato assegnato a Richard Thaler, lo ha annunciato poco fa l'Accademia Reale delle Scienze di Svezia. Non l'hai vinto tu, Mauro, come Accidenti, mai? Ma sono rimasta male ma con tutte le teorie puntavo evolute sulla gestione dei tributi in Italia. No, io veramente devo dire che puntavo molto al Nobel per la letteratura dopo Bob Dylan. Io sarei anche andato a ritirarlo, lo voglio dire pubblicamente, mi recavo volentieri a ritirarlo all'Accademia. Proviamo ad alleggerire un po' il tema di questa mattina, che sicuramente per qualcuno è invece un po', passatemi il termine, pesante, soprattutto che si trova in una condizione economica precaria in questo momento e magari si sente bussare e telefonare un po' troppo spesso dalle agenzie di recupero crediti. Grimaldi, io stavo riflettendo sulla base del tenore dei messaggi che ci stanno arrivando da parte di molti ascoltatori che scelgono di non telefonare ma scrivono, anche questo è un indicatore di come si sentano in questo momento coloro che non riescono ad assolvere i propri impegni finanziari. Devo dire che in molti ci continuano a raccontare di un comportamento non corretto delle società del settore, ma voi a fronte di questi casi che cosa fate? Chiamate voi come associazione di categoria e imponete un'azione, un comportamento corretto verso le persone in difficoltà, oppure è un fenomeno che sfugge anche a voi? Beh, no, ovviamente anche lo stesso codice di condotta disciplina di fatto le modalità per avanzare dei possibili reclami in riferimento a quello che sono le modalità di svolgimento del servizio di recupero crediti. Addirittura lo stesso forum, a fronte di un reclamo che è stato presentato e non ha ricevuto una risposta adeguata da parte dello stesso consumatore, lo stesso forum può prendere in carico l'analisi della questione e quindi di fatto anche avviare una procedura, se vogliamo, di conciliazione paritaria o comunque stragiudiziale, per vedere appunto nei limiti di quelli che sono i poteri istruttori concessi al forum cosa è successo. Quindi di fatto ci sono anche all'interno dello stesso codice di condotta delle modalità che sono prestabilite, c'è cioè un protocollo all'atere dello stesso codice di condotta che è stato firmato. Ma esiste la lista delle società che hanno aderito al protocollo, Presidente Grimaldi, in modo tale che se una persona si sente un po' troppo tormentata da un'agenzia di recupero crediti possa andare a verificare se ha fatto la sua adesione al codice di condotta e quindi può anche contestare l'operato, è possibile? Certo, no, di fatto il forum è costituito dalle associazioni dei consumatori, dalle società di recupero e dall'associazione di categoria che è Unirec, e ovviamente tutte le società aderenti a Unirec hanno l'impegno al rispetto del codice di condotta, quindi è chiaro che l'adesione all'associazione produce alla stregua di un regolamento, certo, l'obbligo del rispetto però insomma monitorate un po' meglio la situazione, Presidente, perché molti ascoltatori ci scrivono, poi io le girerò tutti i messaggi così almeno lei ne possa prendere visione, che mi sembra anche corretto. Infatti ci segnalano in parecchi comportamenti, diciamo così, aggressivi, per usare un termine delicato, che vengono messi in atto. Poi c'è anche, naturalmente, dicevi tu giustamente, Deborah, questa considerazione, il fatto che quando uno si trova in una posizione di sovraindebitamento, magari non preventivata né preventivabile, esatto, perché hai perso il lavoro per altre situazioni, non è che hai la lucidità subito di andare a cercare gli strumenti per poterti rimettere in piedi. E del resto io chiamo in causa ancora la collega Chiara Bussi. Noi abbiamo segnalato proprio oggi su Sole 24 Ore, con dei dati che ci davi tu prima, come gli NPL, insomma i crediti deteriorati, le difficoltà delle famiglie italiane siano cresciuti notevolmente, e siamo quindi ormai al secondo posto rispetto a, certo, un primato non invidiabile peraltro dell'Irlanda. È così. Certo, infatti invece al polo opposto si trova l'Olanda, dove i debiti sono più alti ma la rischiosità è di appena l'1%. Proprio questo per le perché? Ragioni. Questo perché appunto in Olanda chi si indebita sono sostanzialmente famiglie più facoltose, diciamo, e anche l'indebitamento è distribuito più equamente tra le varie fasce di reddito. Allora, avevamo Paola da Milano e Vincenzo da Pavia che volevano intervenire. Con due situazioni un po' complesse abbiamo scelto volutamente di non mandarli in onda. Scriveteci se potete a duedidenari@radio24.it e noi ci prenderemo in carico queste situazioni. Certo. Caro Mauro, torniamo domani, che ne dici? Ma guarda, Deborah, mi sono trovato molto bene, quindi penso di tornare. Buona giornata a tutti, a domani.